Arriva celluite celluloide. È permesso? Avanti, avanti, signorina, venga. Lei ha finito, vero? Beh, veramente ancora... Ma sì, che ha terminato. Venga, venga. Che raffinata sceneggiatura. Senti che tema. Sono già alcuni giorni che volevo venire, ma non osavo. Come sta? Discretamente, perché stavolta mi ha detto bene. Prego. Vabbè, il doppiatore dice... Le devo delle scuse, signor commissario, per come mi sono comportata in quel terribile momento. Ma vede, io non ragionavo più. La capisco. Lui è un romanticone. E capisco anche quanto devo aver sofferto. Il cuore tenero. Subito dopo mi sono resa conto di averla... Perché è duro solo in superficie. Sì. Non ci pensi più. Sapesse quante volte mi è già capitato, se ne dimentichi. Non sarà tanto facile per me. È stato così brutto. E ora non ho più nessuno. Lo so. Cosa vuol dire restare soli? Cioè, poi alla radio potrebbe essere chiunque. Questi erano due dettatori che lavoravano di più in assoluto. Siamo se chi sta sentendo, no? Questo è il grandissimo Maurizio Merli, lui. Ma chi fa il mio mestiere non può permettersi il lusso di formarsi una famiglia. Gli stessi problemi anche di mio Bond. Padre faceva il poliziotto. Fu ucciso da un ragazzo di 16 anni che scappava dopo una rapina. Dottore, bellissimo. C'è il commissario Alpino. Ciao, salve. Bene, allora io vado. Spero che ci sia. Perché più di qualcuno mi ha chiesto: ma dove avete preso questo brano, la sigla? È estratta da questo film. Straordinario, questo film che si trova completo su YouTube, Italia a mano armata. Con uno dei più grandi inseguimenti in automobile di sempre, sì, non solo del cinema italiano, in generale proprio. Tant'è che poi a prova di morte, Tarantino, quando fa l'inseguimento di macchina, mette questo tema, questo qui che usiamo noi. C'è vero. Ne sei una più del diavolo, figlio mio. Va bene, ma parliamo di cinema perché, insomma, ci siamo. Oggi è venerdì, escono tutti i film del mondo. Ho una caterva di film, escono, di cui almeno la metà, per tutta una serie di ottime ragioni, io non ne potrò parlare. Perché, allora, due sono passati al Festival di Roma e quindi, essendo io... Vabbè, ma perché io a questa cosa non ne puoi parlare? È un conflitto di interesse. Ma che conflitto di interesse? Mica devi dire chissà che... la trama. Due capolavori. La fredda cronaca non la posso fare, però diciamo, non ci saranno, ecco, quelle chicche sagaci a cui abituo l'ascoltatore. Però la trama, cioè la fredda sì, no, trama. Certo. Di cosa si tratta? Vedi. Un servizio del TG1, ecco. E gli altri è roba veramente sconosciuta, roba che uscirà in una sala, insomma, è un po' un weekend di piccole uscite e due tre fregnaccione su cui ci fermiamo parecchio perché c'è un sacco di roba da dire. Ma intanto leviamoci. Ma intanto che caldo fa qua dentro. Madonna santa. Cioè, è scoppiata l'estate qua dentro. Sì, qua dentro sì. Vedi, ci sono tutte delle piante rampicanti. Un orto botanico. Baobab. Allora, i film che sono passati al Festival di Roma, che escono questa settimana, sono: uno è Il Vincitore, l'altro è stato l'evento fuori concorso più importante, cioè The Lady, l'evento fuori concorso più importante, che è l'ultimo film di Luc Besson con Michelle Yeoh, che una volta faceva i film con Jackie Chan, film de botte. Lei, ricorderete, quella che in Police Story 3, che se non sbaglio in italiano si chiama Super Cop, salta con una moto su un treno in corsa, fa una cosa incredibile, lei senza stunt chiaramente, e qui invece fa Aung San Suu Kyi, il premio Nobel per la pace, ed è il racconto della sua vita, quindi è un film biografico, ripeto, di Luc Besson, si chiama The Lady. Invece l'altro, quello che ha vinto il festival, si chiama Cosa piove dal cielo, ma chi l'ha visto al festival se lo ricorderà col titolo originale, perché all'epoca non aveva ancora il titolo italiano, cioè che era Un cuentocino. Scusa, vediamo se devi riconoscerlo subito. Vai. No, devi solamente guardare, aspetta. Vabbè, già ho riconosciuto, eh? Il tema è... Tu sai chi era che fischiava? Chi è che ha questo fischio così? Fischiatore di Morricone. Quelli di Alessandroni, credo. Perché è veramente sembra uno strumento. Credo i fischiatori di Alessandroni. Sì, non so, chi siano, però insomma, ha una solidità, tiene la nota con una lunghezza. Beh, ma c'è. Che miseria, è una cosa impressionante. Guarda, un paio di mesi fa sono andato a vedere un concerto diretto da Massimo Nunzi alla cave, all'auditorium. Mm-hmm. E c'era una fischiatrice che faceva, se non sbaglio, proprio questo brano qui. Ed era bravissima, oltre ad essere. Bellissima. Ma bellissima. Fischiava senza usare le mani in bocca? No, fischiava proprio normalmente, così. Come fischio io. Ah, ok. Non usava tecniche. Il fischiatore, cioè, non è che fa altre cose il fischiatore, è solo fischiatore. Il fischiatore fischia. Ok, non è che dice, dai, sono cantante e fischiatore, no. Ci sono il coro, c'era il coro di Alessandro Alessandroni, che dove cantavano, facevano i cori, e c'era anche il fischiatore, famosissimo, di cui non ricordo purtroppo il nome. A proposito di strumenti strani, io ho un concerto di Paco de Lucía all'auditorium, ho visto il manista, che è quello che fa sia le parti nel flamenco di applausi, ma fa anche... Sono una pizza, sfrega le mani e la usa come fosse le spazzole sulla batteria, insomma. E faceva solo questo, è il manista. Il manista. Che film, caro mio. Che colonna sonora. Dicevo, l'altro film è un quentocino, ovvero Cosa piove dal cielo, film vincitore di quest'ultimo Festival del Film di Roma. C'è ancora un pezzo? No, beh, io lo vedo tutto. Le padelle di fagioli. Le fagioli. E tu non farci scherzi. Cerca di campare un'altra mezza giornata. Morto non vale un cento. Che sono i doppiatori di Italia Malarmata, quelli di prima. A domani. Sì. Ma anche gli attori facevano sia i western, certo, che certo. I poliziotteschi. La mattina uno, il pomeriggio l'altro. Insomma, dicevo, esce Cosa piove dal cielo, una commedia argentina con il protagonista di Il segreto dei suoi occhi, il film che 2 anni fa vinse l'Oscar come miglior film straniero. Beh. E questi erano i film della fredda cronaca, diciamo. Bene, invece The Raven è veramente una delusione. È un film che racconta la storia. Vuoi andare il trailer? Vuoi intanto? Ecco queste pubblicità. Poi sono sicuro che te state non gradite sempre. Soprattutto. Cioè, non c'è mai, insomma, d'età audace. Vabbè. Ma vediamo. Ma ascoltiamo. Dio santo. Buongiorno, ispettore. Questo crimine mi rammenta qualcosa. Edgar Allan Poe. La cosa debbo l'onore della sua convocazione. L'altra notte. Parrebbe bello. Parrebbe. E invece. Se non fosse che. Ah, è una boiata. Mamma mia. In un camino. La testa della madre è recisa con un rasoio. Lei parla di uno dei miei racconti. Vabbè, ma insomma, niente di che. Allora, la storia è praticamente nell'Ottocento. Edgar Allan Poe, il vero Edgar Allan Poe, interpretato da un magistrale John Cusack, direi, si trova al centro di una serie di omicidi di un serial killer che uccide come nei suoi libri, cioè ispirandosi a delle cose che lui ha scritto. Quindi il commissario lo va a cercare perché conosceva i suoi racconti. Conosceva i suoi racconti, lo va a cercare. E chiaramente questo qua è un maniaco di Poe, rapirà la sua ragazza, una serie di cose. E come sempre è in questi film, questa storia che ha come protagonista di fantasia chiaramente Edgar Allan Poe avrà lo svolgimento tipico dei racconti di Poe, quindi lui vivrà come un'avventura simile a quelle che ha scritto. L'idea è, si intuisce, un po' di fare quel lavoro che ha fatto Guy Ritchie con Sherlock Holmes, un po' di rivedere quest'Ottocento, di dargli un po' un altro taglio, però non ci riescono, perché si tengono un po' a metà tra il letterale, mentre lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie viene dal fumetto, quindi ha una qualità più immediata, più estetica, più visiva, forte, dinamica. Questo qui ricalca molto la letteratura, quindi ha altri tempi, ha altre ambizioni, soprattutto vuole andare a ricalcare i racconti di Edgar Allan Poe, che erano complicatissimi per ritmo, angoscia, mistero, avevano una serie di sapori che complicatissimo portare in sala, specie con una trama così fregnacciona, insomma, che poteva essere magari buona per un divertissement, ma per una cosa più seria veramente troppo, e insomma a furia di cercare la serietà alla fine viene, insomma, viene una cosa veramente veramente deludente, boh, veramente deludente. Qui mi scrivono che c'è una notizia bomba su 007, ma non compare sul link che mi hanno inviato. Attenzione. Mannaggia i pesci. Ti fanno gli scherzi? Ghost Rider, vai. Ghost Rider. Allora, Ghost Rider merita tutto. Eccolo. Ecco, sapevo, ho preso tempo perché sapevo che poi mi avresti interrotto per la notizia. Vai. Tu vuoi leggerla prima e poi poterla ridare. Allora, Ghost Rider merita tutto un discorso a sé, perché è il secondo film sul personaggio dei fumetti Ghost Rider. Il primo era uscito 5 anni fa, sempre con Nicolas Cage, diretto da Mark Steven Johnson, che ricordiamo per essere uno dei peggiori registi in assoluto, proprio cioè diciamo che gareggia con i peggiori della storia del cinema, Mark Steven Johnson, e fece questo Ghost Rider terribile, proprio terribile al di là dell'immaginabile. Però la Marvel e la Sony continuano a credere in questo personaggio, provano a rilanciarlo, e a 5 anni di distanza fanno un film che, diciamo, ufficialmente è il seguito, però insomma cercano di far finta che si sono dimenticati che ce n'era uno prima. Diciamo che non si rinarrano le origini del personaggio, però neanche ci si appoggia alla storia precedente. C'è sempre Nicolas Cage, ma soprattutto, e questo lo dico anche a te, è diretto dai registi di Crank. Cioè hanno fatto una cosa intelligente, hanno preso un personaggio molto cacciarone, come hai visto, come una parola romanesca ma in italiano. Bravo. Come questo mese? Questo è il mese Malzo. E dicevo, hanno preso i due registi di Crank e li hanno messi su un personaggio che è caos, rumore, insomma, che si presta al loro cinema. È un cinema violentissimo. Loro, per esempio, sono alcuni tra i pochissimi registi che, quando dirigono scene molto concitate, d'azione, molto veloci, sono loro a manovrare la macchina da presa, e loro fanno gli stunt con gli stuntmen. Cioè loro si gettano in bracate e tutto quanto con la macchina da presa assieme a quelli che cascano. Fanno tutto, oppure si mettono con la mano attaccata alla moto, i pattini, e tengono la macchina da presa per fare le scene di inseguimento. Sono registi stunt, e questo si vede nei film. Poi insomma i film hanno tutta un'altra qualità dinamica, sono fortissimi. Questo Ghost Rider inizia e finisce alla grande, ma proprio sparato, ironico. Poi loro sono molto sono divertiti dal cinema che fanno, proprio si vede. E in questo Ghost Rider c'è una scena straordinaria in cui lui, quando non è trasformato nel teschio infuocato, parla con un bambino, e il bambino gli dice: ma come fai quando fai pipì? E lui si immagina, lui vestito da Ghost Rider, che fa pipì facendo le fiamme come fosse un lanciafiamme. Cioè, hanno queste cose molto ironiche, e hanno dato al film un taglio metallaro. Cioè già Ghost Rider è metallaro di suo, cioè biker, giubbotti, catene, diavolo, satana. Il film, a parte avere una colonna sonora metallara, ha quel mood, cioè va a rimestare in quel campo semantico, in quel manicheismo, in quel caos, in quel rumore, però fatto con grande tecnica, con grandissima tecnica. Questo però all'inizio e alla fine sparano tutte le cartucce lì. In mezzo c'è un piattume, una noia inspiegabile, come se loro avessero fatto un film di 50 minuti e poi gli avessero detto: eh no raga, dobbiamo arrivare a 90, però cioè, quindi 50 non si può fare. Hanno allungato la solfa. In mezzo hanno allungato in una maniera incredibile. Piccola nota interessante. Lunghe pause. Madonna, una parte romantica che non c'entra niente, veramente. Piccola notazione interessante: la coprotagonista di questo film è Violante Placido. E non è neanche un film ambientato in Italia. Cioè non è che, sai, l'ambientano in Italia e quindi ci dobbiamo prendere. E come mai andava a sbattere laggiù? Probabilmente, questa è una spiegazione che mi sono dato io senza nessuna base. Lei ha fatto già The American con George Clooney, che era un film ambientato in Italia, quindi hanno preso attori italiani e c'era lei con George Clooney. Probabile che questo film un po' abbia girato, costa poco rispetto alle attrici americane, costa poco Violante Placido. Il film è girato in Romania, sempre per risparmiare, e quindi probabilmente l'hanno presa per questo. Ci sta bene, è senza infamia e senza lode, il che vuol dire senza infamia, che è già una lode. Come anticipato settimane fa, in questa news intervista al nostro amico Ilario Citton di Le Circle, qui parliamo da supergacinema.it, in questo momento la troupe del nuovo film di 007, Skyfall, sta girando in Turchia. Ilaria anticipata di una rocambolesca scena di lotta sul tetto di una scena in corsa, cioè, e treno, puntuale treno. Ad annunciarla è stato Harriet Daily News, dove è stato pubblicato il video realizzato da uno studente di 17 anni, tal Ibrahim Ozden. Dopo essersi intrufolato nei pressi della scena, Ibrahim insieme ai suoi due amici sono recati alla stazione, insomma hanno ripreso questa scena qui, eccola qua, vediamola, vediamola, vedete, guardatela tutti, perché vedete, bella, poi è muta, quindi no, aspetta, forse no. Ok. Beh, allora diciamo cosa si vede. Si vede da lontano, ripreso un vagone, un cameraman con la macchina a mano, due che si picchiano, uno c'ha una specie di, come se brandisse una cinta, ma poi sarà una catena, scrivono. Ah, ok, sarà modificata con i computers. Credo di sì. Quindi probabilmente, e siamo molto lontani, non si vede bene, probabilmente uno è Daniel Craig, cioè Bond. Sì. Il più chiaro, e l'altro sembra un nero, sembrerebbe. Bello però, bravi, eh? Sembra quasi vero, non verissimo, però quasi sembra vero. Bond è stato smascherato da 17 anni insieme ai suoi amici. Bond sarà invecchiato, era troppo indaffarato a non beccare una catenata in faccia, scrive. Però bravi, eh? Molto bravi. Diciamo, recuperatelo su supergacinema.it. Se cercate, insomma, Bond, Skyfall 007, trovate questo video. È interessante perché poi si vede come girano le scene di rissa, le scene di botte. Sono un po' a vederle da fuori, senza gli effetti speciali, senza gli effetti sonori, scusate. Sembrano un po' finte. Sembrano un po' finte. Sembrano, sono finte. Vabbè. Sembra quasi che siano finte. No, sembrano quello che sono, cioè dei balletti, perché sono molto coordinate, hanno una coreografia e quindi sembrano un po'. Hanno tutto un loro ritmo, che poi, nel montaggio si perde, diventa più concitato. Bravo, però bello. Questo ce l'ha suggerito il nostro. Giovanni Villani, Prode Giovanni mitico Villani. Giovanni, l'ho incontrato l'altro giorno, andava a sentirsi Roger Daltrey all'auditorium, pensa te. Il Giovanni me lo sai, forse alla proiezione di Raven, ho una proiezione comunque, se non mi ricordo quel film. Ti sta alle costole, caro mio. O forse era a casa in camera da letto. Bene, altri films? Questa settimana esce un film di cui si è parlato molto, però, si chiama È nata una star. È un film con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto. E, caso strano per l'Italia, è un film tratto da un libro non italiano, cioè un libro di Nick Hornby. Un libro omonimo. Nick Hornby? Esatto, è stranissimo, no? Cioè, un libro di Nick Hornby adattato dagli italiani, prima degli inglesi, prima di tutti. È una cosa stranissima. Il libro si chiama sempre È nata una star, stesso titolo. E il racconto è quello di una famiglia che, diciamo, proprio la prima scena è che questa madre, che è Luciana Littizzetto, nella casella della posta trova, che è la vera, no, la mail, non l'email, trova un pacco, lo apre, c'è un DVD porno, lo mette perché dice, c'è un video, dice guardalo, dice così, lo mette e c'è il figlio di 19 anni. Ah. Tra l'altro anche con delle doti non comuni, insomma, perché se stai in un film porno un motivo c'è. Chiaramente lei casca dal pero, il figlio abita con loro, è anche un po' un bamboccione, insomma, uno di quelli, un bonaccione, non sembrerebbe proprio. Un po' pornodivo. Esatto, è uno con la faccia da buono, come gli dicono a Verdone in Troppo Forte, te c'ha la faccia da buono, è uno con la faccia da buono, insomma, non ha quel physique du gol a vederlo, ma in realtà non si vede nulla nel film, chiaramente, però quello che dicono è... Questi due genitori... Si capisce che ha... Esatto, questo effetto sonoro era un file registrato, una clip audio, questo effetto. Certo, certo, chiaro. Insomma, lei è preoccupata, chiama il marito che è Rocco Papaleo, che è un uomo del sud, loro abitano tipo Torino, in quella zona lì, però lui è del sud, quindi molto conservatore, sono disperati da questa cosa, e tutto il film è questa loro giornata, che un po' cercano di contattare il figlio, ci parlano, lui si arrabbia, cercano di capire com'è nata questa cosa e di farsi una ragione di tutto questo, che è una trama molto tipica dal film di Nick Hornby. Allora, secondo me non è stato ben adattato, nel senso che... C'è una cosa strana questo film. Le figure principali, loro due, non sono divertenti, non sono coinvolgenti, non funzionano. Tutto quello che sono estranei al film. Sì, capito, non ti interessa. Tu lo guardi e dici, questa cosa non mi interessa. Tutto quello che è dietro, quelli che incontrano all'ufficio dove lavora lui, i vicini di casa loro, interessantissimi. Cioè sono dei personaggi di contorno cesellati molto bene, molto, molto precisi, molto acuti. Quelle cose che vedi veramente nella vita. Vorresti dirmi che sono due registi, due attori stanchi oramai? O forse hanno adattato male le parti principali, perché sai, il contesto devi adattarlo per forza, perché non siamo in Inghilterra, siamo in Italia, quindi lo devi cambiare. Mentre invece loro due rimangono uguali al libro, perché sono quindi probabilmente da questa dinamica particolare è venuto fuori il risultato. Il film è di Lucio Pellegrini, quello che aveva fatto il bellissimo E allora Mambo, ha esordito con quello. Recentemente ha fatto il buon film che a me non è dispiaciuto, che si chiama Figli delle Stelle. Insomma, è un regista assolutamente buono. Però a me una data star non mi è piaciuto. E invece The Lady? L'ho detto, era quello che era l'evento speciale del Festival di Roma, come anche Cosa Piove dal Cielo. Quindi anche 17 ragazze. 17 ragazze è un film che io non sono riuscito a vedere. Cioè, hanno fatto 1000 proiezioni, io ogni volta avevo qualcosa di più importante. Guarda, è incredibile. No, più del tipo che sono fuori Roma, c'è un altro film in contemporanea molto più importante. Non sono riuscito a vederlo, incredibile. Ed è un peccato, perché è della Teodora Film, che è una casa di distribuzione italiana molto meritevole. È un paradiso. Vuoi passeggiare? Come i vecchi? Ain't got no father, ain't got no culture, ain't got no friends. Prendiamo un appartamento immenso. Beh, chiediamo l'emancipazione, fuori dalle palle, educatori e assistenti sociali. Non faremo come i nostri genitori. Credi di essere furba? Ma sei solo su. Vai, fai finta di averlo visto e dai, fai una... Un bel film delle brave attrici. Sai, nel mezzo poi ha il culmine. Qua, guarda. Allora, è un film che racconta di queste 17 ragazze che sono tutte quante incinta e decidono di andare a vivere da solo, di diventare emancipate e partorire in autonomia. Sfortunatamente una sinossi senza averlo visto. Dimmi chi è stato. Gran film, bello. Gran film, un montatore molto bravo, ecco. Il manista ha detto anche onanista. Baci, Barbara, buonasera, grazie. Allora, per il concerto dei Pan American, mi scrive, grandi ma eccessivamente dilatati, hanno suonato nella chiesa metodista e ho scoperto che le finestre della chiesa non reggono i bassi, quindi devono aver vibrato tutta la sera, poveretto chi è andato a vederli. Stefania, quando risentono la musica mi ricordo quanto ci sei mancato. Buona serata, grazie, ben ritrovati a tutti. Oggi mi ha scritto ci stanno una persona, ritrovando tutti. Mi ha scritto una persona che ha ritrovato i podcast di Cellulite e Celluloide. A volte ritorno. Piano piano. Lentamente ma inesorabilmente. Ah, guarda, è solo questione di tempo. E già stiamo un pezzo avanti. Allora, invece, altri film usciti? Allora, non ci sono altri film, cioè in realtà escono altri film questa settimana e tutti gli altri non li ho visti per tutte quelle buone ragioni che ho elencato prima, perché alcuni non l'hanno proiettati, altri sono film minuscoli che escono in una sala, per esempio Chicote. Ah, chiamiamo Giovanni Villani. Per esempio, ti faccio un esempio, Chicote è un film del 2006, pensa, che esce ora al cinema, perché racconta la storia del Don Chisciotte e c'è Lucio Dalla che fa Sancho Panza. Quindi solo ora lo fanno uscire al cinema, però non l'hanno proiettato, cioè in realtà l'hanno proiettato, io c'avevo da fare. Però dico che non l'hanno proiettato. Cioè io l'avrei voluto vedere, però l'hanno proiettato, ma tu non c'eri. Ma avevo dei film importantissimi da vedere. Avevo delle contemporanee. No, sentiamo se il prode Giovanni ha visto Chicote. Vediamo, no, c'è un... No, sta scrivendo Draven. Anche io Chicote l'hanno proiettato. Avevo sonno, vedi. Siete due è bravo questo ragazzo. Due nulla facenti, all'attitudine giusta per fare questo lavoro. Chi siete? Marca miseria. Io avevo degli impegni di lavoro, che vuol dire una riunione. Un ho meeting. Visto l'altra faccia del diavolo. Oh, come l'hai trovato? Meglio i trailer. Te l'avevo detto, che poi non quaglia. No. Poi c'è quell'italietta che non. Sì, ma noiosetto. Vive di quelle due o tre scene in cui quella si sgomitola, in cui c'è sì, però vomita, si piega tutto. Che poi è il repertorio dell'esorcista classico. Sì, insomma, sì, pensavo di più, pensavo meglio, perché ripeto, il trailer mette paura proprio. Sì, è molto molto. Il trailer è paurosissimo. Mi dispiace che hai speso i soldi, sei andato in sala e. Il resto io devo informarmi, certo. Stare al passo coi tempi. Niente, no, non mi ha convinto. Guarda, veramente, ma ne abbiamo già parlato, credo. Perché se forse sono rincoglionito. Forse. Danno i premi ai traileristi, vero? Sì. C'è un premio. Sì, sì, ogni volta facciamo questo. Però è molto bello, gli ascoltatori lo amano molto. E ogni volta rifacciamo questa cosa. C'è sempre qualcuno che non l'ha sentito. Abbiamo due vecchi rimbambiti. Mannaggia. Allora, mi hanno detto che l'altra faccia del diavolo è dei romani che parlano come i rumeni. Non l'ho visto, però io l'ho visto, ma questa cosa l'ho visto, ci ho fatto caso. Allora, invece io ho visto un film, devo dire, adesso vi dico questa cosa. Anzi, faccio un discorso molto. Guarda che bello questo discorso pieno di ganci. Sì. Allora, comincio dal box office. Questa settimana è successa una. Anzi, settimana scorsa, diciamo, il weekend scorso, è successa una cosa che, senza scherzare, ha veramente pochissimi precedenti nella storia del box office italiano. Cioè, non era quasi mai capitato. Cioè? Quasi Amici, il film che molti di voi avranno visto, francese, in cui c'è il ragazzo di colore che aiuta il disabile, il ragazzo di colore povero che aiuta il disabile ricco, aveva esordito molto bene 4-5 settimane fa, veramente molto bene, al terzo posto, e si era mantenuto al terzo posto alla grande, che non è facile mantenere una posizione del genere per tre settimane, esatto. Addirittura poi. Questa settimana è al primo posto, cioè invece che diminuire come fisiologico, tutti i film iniziano alla grande e diminuiscono gli incassi, ha aumentato. Che è una cosa che capitava negli anni 70, non capita veramente più da almeno 10-15 anni. Ma un passaparola senza precedenti? Senza precedenti, anche per rapidità, sai. per come è fatto il cinema oggi, il passaparola funziona molto poco perché i film stanno poco in sala, quindi deve essere rapidissimo, e questo lo è stato. Tanto da arrivare primo, questa settimana è primo Quasi Amici con 1.400.000 fatto questa settimana, in totale ne ha fatti 7-8, ha superato Magnifica Presenza che ha fatto quasi 1.200.000 e Verdone che ha fatto 1.000.000, e addirittura in totale ha fatto quasi quanto Verdone, perché Quasi Amici ha fatto 7.800.000 e Verdone in totale ha fatto 8.000.000, praticamente allo stesso livello. Insomma, veramente un exploit incredibile. Del resto, Quasi Amici in Francia il secondo incasso della storia del cinema francese. E il primo qual è? È l'originale di Benvenuti al Sud, cioè quello che noi in Italia chiamiamo Giù al Nord. E questo qui è il divertentissimo, secondo. Esatto, divertentissimo. Pure questo è un film molto carino, te lo consiglio a te che vai sempre in sala. No, l'ho visto questo. Ah, l'hai visto? Certo. Ah, pensavo tu dicessi di Giù al Nord, pensavo dicessi. No, ho visto tutte e due, sia questo che molto carino, molto divertente, molto bello. Esatto. E esce tra due settimane, guarda che gancio. Esce tra due settimane, lo fanno uscire proprio adesso che è pregnante, un film in cui c'è uno dei protagonisti di Quasi Amici, cioè il ricco di Quasi Amici, e quello che è il protagonista di The Artist, il film che quest'anno ha sbancato gli Oscar, ha vinto tutto gli Oscar. Solo che, come spesso capita, poi in realtà io non lo dico per criticare, è una cosa buona che fanno, nei cartelloni, voi vedete questi cartelloni con Jean Dujardin, che è l'attore di The Artist, bello, grosso, c'è questo film che si chiama Piccole Bugie tra Amici con Jean Dujardin, in realtà lui fa un ruolo piccolissimo, perché è un film di 2 anni fa, quando lui non era ancora famoso, però lo fanno riuscire ora che è diventato famoso, lo mettono nei cartelloni, poi c'è anche lui di Quasi Amici, quindi c'hanno due attori ora molto noti e lo rimettono in sala. È un film però molto bello, è un film che segue un po' le orme di Il Grande Freddo, diciamo che dopo che è uscito Il Grande Freddo ha creato un po' un genere, sono stati fatti tanti film tipo Il Grande Freddo. Per esempio, noi in Italia recentemente abbiamo fatto Immaturi, che sono dei film che a me fanno schifo, sono veramente orrendi, però è quel format, diciamo, è quell'idea degli amici insieme che passano un periodo insieme, musica d'epoca, tutta quella cosa là. Piccole Bugie tra Amici è bellissimo, e proprio se visto rispetto a Immaturi dimostra tutta la sua maturità, cioè il fatto di essere migliori, perché Immaturi è un film che sembra dirti guarda noi protagonisti di questo film siamo come te e siamo, nonostante tutto, nonostante i nostri difetti, siamo straordinari, mentre invece Piccole Bugie tra Amici ti dice guarda siamo come te e nonostante tutto siamo terribili, siamo pessimi, nonostante amiamo, ridiamo, scherziamo, è un film anche divertente, però non c'è mai autocompiacimento. Uscirà tra due settimane, ne parleremo molto, perché insomma a me mi ha veramente veramente conquistato. Piccole Bugie tra Amici l'ho visto anche io ieri, ero dietro Vasquez, mi sono commosso tantissimo, un film bellissimo. Sempre dietro. Comunque sempre dietro. Ma è un caso. No, sono d'accordo, è un film tra il commovente e anche il molto divertente, come Un Grande Freddo, veramente bello. Bene, detto questo, le prossime uscite, citiamo perlomeno le prossime uscite della prossima settimana. Le uscite prossima della settimana prossima faremo settimana. Un collegamento telefonico, perché io sarò al Future Film Festival. Ma dove? A Bologna. Ma? Io ogni anno vado al Future Film Festival di Bologna, la manifestazione del cinema tecnologico. Giovanni che ci impegni? C'è la furia dei titani, esce. Lo vedo tra 2-3 giorni, lo vedo poco prima di partire, giusto poco prima di partire. Ma è 3D? Che tu sappia. È 3D, però c'è tutta una polemica perché Scontro tra Titani aveva un pessimo 3D e negli anni è diventato il simbolo del cattivo 3D. Cioè quando uno si dice guarda questo film c'ha un brutto 3D tipo Scontro tra Titani. E quindi adesso che fanno questo qui che è il sequel non ufficiale, che è 3D anche esso, chiaramente questi sentono il peso di doverlo fare per bene. Io spero sia un 3D decente, perché sarebbe veramente ridicolo se un'altra volta fosse un 3D truffaldino, veramente. Uscirà quello settimana prossima e uscirà anche Buona Giornata, che è il nuovo film dei fratelli Manzini. Arrivo. È montato in moto. E uscirà Il romanzo di una strage di Marco Tullio Giordana, per quello è una cosa abbastanza interessante. E un altro film del Festival di Roma, cioè Il mio miglior incubo. Scusa. Questi spari della pistola col fischio. Allora. Stupendo. Com'è andata? La mia sposa stava al fiume, signor, a lavare. Un gringo la aggredì e la voleva. E ho corso in suo aiuto. Avevo il coltello. Quello mi guarda con gli occhi spalancati. Che sound design. No. Quelli non vanno mai. A proposito, grazie per l'aiuto. Erano solo in 3. Già, ma presto saranno in molti in questo dannato paese. Quindi, fratello mio, è meglio che te ne vai. Prima che tutta la feccia dell'Ovest piombi qui con la voglia. Stanotte, quando torno a casa, me lo vedo. Gli dai una guardatina, te lo diamo la verità. Ne stanno mettendo molti di film interi su YouTube. Ma secondo me è il posto meno sicuro dove mettere film interi, te lo dico, perché YouTube è serio con il fatto. No, lo so, so, però ce ne sono. No, perché dai, io ho notato anch'io che nell'ultimo periodo stanno aumentando, probabilmente per la storia di Megaupload, chiaramente le cose sono collegate. No, avevi notizie di Megaupload. Oh, una notizia interessante, perché io ho avuto uno scontro tra titani. A proposito di Megaupload, di cui parlavamo la settimana scorsa. Con chi l'hai avuto? Con un utente del mio blog che mi ha detto: sei, non è vero niente, però non è Megaupload. Potrebbe essere, ma secondo me quello invece è Megaupload. C'è cosa? Non ho capito. Megaupload. No, è lui, te lo dico io ufficiale. È lui. Ah, è lui proprio. Cioè, io lo so perché leggo le notizie, perché sono dentro il mondo. Ah, sei dentro news. Le cose. Beh, esatto. Dammi delle dritte così. Allora, no, quello che è successo. Lui insiste a dire che è un fake. E io dicevo: vai, spiegami perché è un fake. Sì, no, vedete. E lui no. Era un fake, appunto. Dico, vabbè, no, spiegami perché. Cioè, ci sono dichiarazioni ufficiali di lui, di Kim Schmitz, che ha detto: sì, è mio, ritornerò. Insomma. Tant'è che questa è la notizia di adesso. Lui tutti i suoi file li aveva da una parte. Cioè, come dicevi tu, no? Cioè, figurati se c'era da una parte. Allora, la società. Stesso tipo mi ha detto: ma figurati. Ma uno scettico di professione. Ma proprio sì, uno che aveva voglia di fare polemica. Ah, beh, sono i migliori quelli. Non si stancano mai. Allora, era affidato a una società di Hong Kong che si chiama Carpathia Hosting. e vuoi sapere quanta roba era? 28 petabyte di file. Vuol dire 28 milioni di giga, praticamente. 28 milioni di giga? Esatto. Diciamo che se fossero ipoteticamente tutto video, se fossero tutti film, per dire, se tu mettessi play e li mettessi in shuffle, andrebbero avanti per 13 anni. Le statistiche. Quello che succede. Stanno dentro il numero di server in cui stanno, sono 1103, cioè vogliono 1103 server per ospitare questi 28 petabyte. Quello che è successo, la notizia, è che questa Carpathia Hosting se ne vuole liberare, nel senso che li ha dovuti tenere per motivi legali, per le indagini però non li vuole, perché sicuramente un po' gli 28 peta non è che li puoi tenere in un angolo. Cioè, sai, intanto li metto lì, dirà un bel palazzo. Poi sono 28 peta che scottano, insomma, non è che è proprio il massimo della roba da tenersi. Non so Kim Schmitz, lui come si sia messo, li vuole, non li vuole, insomma, evidentemente se questi se ne vogliono liberare vuol dire che lui ancora non ha fatto un'offerta o lo stanno dicendo per dirgli sbrigati, dacci i soldi che sennò qui buttiamo tutto. Qui diceva che per esempio a loro alla Carpathia gli costa $9,000 l'anno tenerli là. Ma è poco, $9,000 che niente. No, scusami, al giorno, ho detto una stupidaggine. Ah, 9,000 al giorno. Sì, sì, no, e l'anno non ha senso, certo. Cioè, ti do io 9,000 l'anno. E per avere 28 peta. Ma ce li hai gli hard disk per metterceli dentro? Ne compro 2-3, insomma, quanti ne vorranno? 2-3 milioni. Per cui, insomma, la roba c'è. Tu che hai la tua roba legalissima, io avevo podcast, i miei podcast, quindi stanno lì, puoi rivolgerti anche tu privatamente alla Carpathia. Devi conoscere il cantonese, no, non credo che puoi fare una cosa privatamente perché comunque devi passare per loro, però sai dove sono? Vado nel Canton Ticino. A Hong Kong. Ah, non nel Canton Ticino, no, non nel cantonese, non io subito. Perché tu quella lingua la sapevi, il canton Ticino, sì, Svizzera. Quindi è ufficiale che Mega Upload è di... Sì, lui l'ha detto, cioè almeno io non ha mentito lui, però insomma, detto. Abbiamo smentito pure quello che mi ha fatto due palle così a rispondere, ti giuro. Insistevo. A me la polemica proprio tua tengo, certo. Però se gli rispondevi un po' ti sfiziava. No, non è che mi sfiziava, è che diceva non è vero quello che dici, non è di figura di quello sta carcerato, l'hanno tirato fuori, vattene a leggere il delirio quando hai tempo. Sì. Sapete qualcosa sul film I giorni della vendemmia? Ci scrive Stefano. Allora, I giorni della vendemmia, lui probabilmente fa riferimento al film di Marco Righi, però io devo dire che faccio fatica a trovare informazioni, nel senso che è un film molto molto indipendente che ha girato per festival nel 2010 ma che non ha una distribuzione italiana, quindi io non l'ho visto perché non ha girato, diciamo, nei festival che ho frequentato io. È stato al Rain Dance, che è un festival inglese, al festival di Hamburgo, di Syracuse in America. Ce lo dobbiamo andare via. No, purtroppo non so che dirti. Niente, che posso dire? Ricordatevi i podcast, per se vi siete sintonizzati in questo momento e volete di più di queste trasmissioni, non potete sentirle, volete riascoltarle, basta cercare Cellulite e Celluloide Podcast su Google o su Facebook, c'è cioè il gruppo, stanno un po' ovunque, sul sito di Faster, sul blog mio, ovunque trovate i podcast, cioè su iTunes trovate i podcast.